Siamo con Marco Pasquinucci, direttore del Festival Fra Terra e Cielo, Festival delle Colline Geotermiche, dal 1 luglio al 26 agosto. Marco, benvenuto. Ci presenti questo festival? Allora, si svolge in più aree della zona pisana e grossetana, sarà a tappe? Quante saranno le opere presenti al festival? 11 appuntamenti Undici che si appuntamenti. sviluppano appunto. A parte l'evento speciale, la partenza vera e propria è il 12 luglio.